Guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain. Guarda, yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei. No, no, no, poi scendiamo sotto casa e ne accendiamo sei. No, no, no, non avessi questa vita, giuro la vorrei. I miei amici si sono inventati un lavoro proprio come me. Hanno le bottiglie in mano ma non fanno i sommelier. Appena vediamo una luce blu iniziamo a correre. Sto facendo lo slalom tra le bombe. Scusa, adesso non posso rispondere. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, non mi va di andare a bere una cosa in centro. Possiamo bere una birra in questa classe A. Girarne una grossa che siamo a posto se ne fumiamo metà. Guardare fuori dal finestrino come fossimo nell'aldilà. Io sono fatto così, sto fatto così, esco lunedì. Bevo questo qui, fumo quello lì e poi do i numeri. Se vuoi balliamo lento, ma poi mi riprendono pure qui. Non ti sento, non posso scendere sotto i cento. Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Non posso scendere sotto i cento. Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Non posso scendere sotto i cento. Wow. Miami LA, Monte Carlo, vivevamo in una crack house. Yeah. Tarari, tarara, sti raganti, sta un gran caos. Uff, ho quattro società fra Dubai, sono Telecom Italia. Yeah, mi faccio queste qua, questa qua, neanche so come si chiama. Wow, metto la giacca lunga, sono l'avvocato, frate, fammi causa. Yeah, progettano i soldi, l'ingegnere, non ho diploma alla laurea. Yeah, passiamo contro mano 180, mamma, sono l'ambulanza. I raga pietre su pietre su pietre, l'isola di Pasqua. La mia vita è un casino, Piedmont, Monte Carlo, Monaco, casino. Quello che sognavo sì, casino. Ci vesci Louis Vuitton, Cabrio, oh. Una vita da manicomi, oh, per me. Come fossimo pazzi, come l'ultimo giorno per noi. Io sono fatto così, sto fatto così, esco il lunedì. Bevo questo qui, fumo quello lì e poi do i numeri. Se vuoi balliamo lento, ma poi mi riprendono pure qui. Non ti sento, non posso scendere sotto i cento. Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Non posso scendere sotto i cento. Keanu Reeves.